State ascoltando Easy Rider. Grande pezzo, non c'è che dire, con il suo incedere con la cassa in quattro, ovviamente era in digestione disco, avrete riconosciuto la voce di Enrico Ruggeri, per quanto era un rifacimento, non era la traccia originale dei Decibel, datata 1979, proprio un 45 giri pubblicato dalla Spaghetti Records e poi ripreso in mano nel 2003 da Enrico Ruggeri per il suo album Punk Prima di Te, in cui appunto ha riproposto i brani del suo periodo primordiale, quello con i Decibel, quando facevano heavy metal, quando facevano punk, quando insomma se la prendevano giustamente con tutte le nefandezze della nostra società, tra cui anche questa attitudine ben descritta in questa indigestione disco che devo dire che all'epoca ben descriveva quello che succedeva negli animi dei baldi giovani impiegati, come racconta la canzone. È il momento di prendere in mano, invece che gli sms, che sono sempre tantissimi, la mail mox@radiorockfm.com. Il primo amico segnala, visto l'ascolto del primo brano di questa sera relativo al repertorio Schiantos, segnala che nel concerto per Demetrio Stratos, poi documentato anche sull'omonimo doppio album, 1979 il concerto, gli Schiantos facevano appunto queste poesie, e i Sbarbo, e i Buba, e Come faccio a farmi fare. Questa è la sequenza delle poesie. E lui dice: quell'uomo è un mito, l'amico Déjà Vu. Poi Mirko spera di risentirmi, ovviamente, come tutti speriamo di risentire qualcosa, ma la speranza, ripeto, è l'ultima a morire. Auguri, anche se in ritardo, spero che tu possa arrivare a 3900 primavere, ma insomma si parla di immortalità o quantomeno di reincarnazione, cosa nella quale ammetto comunque di credere. Mi chiedi se il mio programma si ispira al mensile Raro. In realtà no, in realtà non si ispira a Raro. Diciamo che Raro è uno di quegli strumenti che ho avuto occasione di consultare nella mia vita. È un po' che non lo leggo, però oggettivamente sì, però io non mi ispiro a Raro, io mi ispiro alle sensazioni che la musica trasmette. Sai, Raro è un'ottima rivista molto competente, con documentazione affidabile, direi al 99%, per cui non ho niente da dire a riguardo, anzi. Poi mi chiedi quale base ho sotto. Ne ho diverse di basi, in realtà non so a quale tu ti riferisca. Se era una solo di pianoforte ascoltata prima, è un brano di un musicista polacco molto bravo, molto noto, si chiama Preisner, noto perché è un compositore, uno dei più grandi compositori viventi di colonne sonore, ed è diventato famoso grazie alle colonne sonore dei film di Krzysztof Kieslowski, che purtroppo è scomparso nel 94, quindi se è quella la base a cui facevi riferimento. Quella che c'è in sottofondo adesso sono gli Air, cioè quel duo francese ascoltato proprio in chiusura della puntata di ieri. Un saluto all'amico Werner che scrive dalla Spagna, auguri in ritardo, grazie. Poi mi chiede di non mettere musica troppo bella domani, visto che non potrà seguirmi. Ma io ripeto, il concerto, domani ci sarà il concerto della Rock FM Star Band, quindi io non sarò in diretta, ci sarà eventualmente una replica oppure musica in rotazione, lo decideremo domani stesso. Avevo il dubbio se restare ad ascoltare Easy Rider o andare al concerto di Roger Waters qui a Granada. Allora vai a Granada, ovviamente, dove abiti, al concerto di Roger Waters, senza nessun dubbio. Non c'è una puntata sola di Easy Rider che possa valere il confronto con un concerto di Roger Waters. Non peraltro, le puntate di Easy Rider sono anche belle, ma il concerto di Roger Waters è un po' più raro, per cui conviene sempre andarlo a vedere. Io l'ho visto due volte ed è una bella esperienza, quindi diciamo che vale la pena, caro Werner. Poi un saluto a Danilo che dice: grande inizio con Schiantos e Black Sabbath, e vorrebbe chiedermi qualche album live, se esiste qualche album live di Emerson, Lake and Palmer, e come si intitola l'altro album dei King Crimson con Greg Lake alla voce. Allora, caro Danilo, un live di Emerson, Lake and Palmer storico, si intitola Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends, ed è degli anni 70. L'altro album dei King Crimson è il secondo album dei King Crimson, in cui canta ancora Greg Lake, ed è In the Wake of Poseidon, un disco che spesso e volentieri a Easy Rider abbiamo ascoltato proprio con la traccia di apertura, Pictures of a City. Poi mi arriva un divertente messaggio molto breve da Andrea che dice semplicemente come oggetto: commento su Cobham, e il corpo del messaggio è: Mox, minchia. Ovviamente nella migliore accezione di questo termine possibile, d'altronde ascoltando Cobham insomma qualche esclamazione deve per forza saltare fuori. Andrea da Terni, mi fa piacere che mi ascolti da Terni, una città, un territorio, l'Umbria, che io apprezzo e amo particolarmente. Dice: ieri a pranzo ho sentito il bisogno di risentire, dopo anni, Circus dei King Crimson, poi ieri sera anche tu. E poi dice: belli pure gli Zao. Bene, mi fa piacere che anche tu hai un gusto eclettico, ci vuole giustamente la grande Scusate, rido per il messaggio successivo che dice: ma chi sono questi? Azzarderei dire che sembra la voce di Tozzi. No, non è proprio Tozzi, è Ruggeri. Hanno anche collaborato i due in un infausto festival di Sanremo, però dai, c'è una certa differenza tra Tozzi e Ruggeri come timbro vocale, quantomeno. Mauri mi dice: hai fatto felice un uomo ieri, lo sai, ascoltare i Gangrene in radio è stata una vera emozione e si sentiva anche bene, bene, bene. Ci si vede domani, bene, allora tutti gli amici che domani verranno a trovarci nel palco della Rock FM Stars Band saranno i benvenuti. Nel frattempo io che ho parlato troppo e dopo riprendo in mano i vostri messaggi, vi regalo ancora un po' di musica. Qualche giorno fa, qualche sera fa, qualcuno di voi mi ha chiesto se metto mai i Candlemass, eccoli. Candlemas dalla Svezia, ovviamente. Andiamo indietro di un po' di anni. Questo era il loro secondo album, un capolavoro, Nightfall si intitolava, e veniva aperto da questa The Veil of Souls, con la possente voce di questo uomo giovane uomo grasso con i capelli boccolosi. Si chiamava Messiah Marcolin, una voce quasi da tenore, da giovane tenore, va bene. Candlemas, quindi, per accontentare anche le vostre richieste, la vostra sete di sano metallo darcheggiante. Abbiamo ascoltato, d'altronde, prima i maestri, Black Sabbath, e poi è giusto, insomma, ritrovare anche un po' di eredi ogni tanto, tra cui loro. Beh, chiede scusa l'amica che ha parlato di Tozzi prima invece che di Ruggeri, dice: "Deh, confondo spesso i cognomi, ops, meno 5 punti sulla patente da vero rocker." Questa è la domanda che fa. No, stai tranquilla, sulla musica leggera potete sbagliare quanto volete. Un amico, Repker, dice: "Che ingiustizia, non ho ancora ben capito come mai." Beh, non ripetiamo questa cosa. Nulla da dire, andranno avanti con... no, non vanno avanti con quella cosa lì che stai scrivendo, e io non la leggerò neanche. È brutto però non poter fare nulla. Torniamo alle cose belle, e vi ringrazierò tutti uno per uno, verrò a sentirvi in Duomo. Bene, questo è un esempio da seguire, caro amico Repker. Poi un po' sparsi, Luciana Dall'Ippi di Firenze dice: "Mi mandi un bel pezzo di Faustò." Ovviamente no, ho appena messo Ruggeri, Faustò è un po' l'ispiratore di Enrico Ruggeri, per quanto siano coevi, e quindi non è il caso di mettere due cose così simili subito una dietro l'altra, quindi Faustò lo ascolteremo più avanti. Roberto Dalla Versiglia dice: "Non dovrei essere all'ascolto." Perché non dovresti essere all'ascolto? Tu devi essere all'ascolto, insomma, merita uno sforzo. Non deve essere uno sforzo essere sintonizzati su Rock FM, almeno finché ci siamo noi. In Spectrum, l'album di Billy Cobham, è scritto: "What is life but a spectrum, and what is music but life itself?" La vita che ci ha insegnato ad amare. Questo è il messaggio di Roberto. Una veloce traduzione dice: "Che cos'è la vita se non uno spectrum, è quello spettro di colori, insomma, quello creato dagli specchi, ovviamente. E la musica è la vita stessa." Giusta considerazione. Tra l'altro, io mi sono dimenticato di dirvi, riguardo Spectrum, che i musicisti illustri, almeno due nomi che accompagnano Billy Cobham in quell'album storico, sono proprio Tommy Bolin, menzionato all'inizio vista la sigla dei Deep Purple in cui ha militato lui, e Ian Hammer come un grandissimo tastierista anche con la Mavishnu Orchestra. Un saluto all'amico Kattivik, felice della programmazione. Filo, che dice: "Grazie per il bellissimo primo maggio a Russi, ancora ricordi del primo maggio, con la band di Rock FM. Il concerto è stato davvero stupendo ed è una serata che non dimenticherò mai." Ma insomma, speriamo, caro Filo, che anche le prossime due date siano degne di essere definite veramente, come dici tu, bellissime. E mi riferisco appunto a quella milanese e alla prossima toscana, il 24 di maggio. Allora, prossimo pezzo potrebbe rientrare, visto che ieri non ho messo i Genesis, allora oggi oserò mettere i Genesis, però senza Peter Gabriel, per questo che uso il verbo osare. Il buon Phil Collins è un personaggio straordinario, perché nel momento in cui Gabriel abbandona il ruolo di frontman, di leadership della nave Genesis, praticamente si scopre che Phil Collins ha un timbro vocale talmente simile che può sostituirlo, e infatti realizzano questo album, A Trick of the Tail, in cui le parti di batteria ovviamente sono eseguite dallo stesso Collins, ma anche le parti vocali. E è quasi bello accorgersi, oltre che straordinario, che la differenza quasi non si senta. Voglio spendere un'altra parola su Collins. In quel momento lui suonava anche in una band di jazz rock veramente pazzesca, che si chiamava Brand X, e che ascolteremo ancora, anzi riascolteremo a Easy Rider ben presto. Allora, da A Trick of the Tail del lontano 75, riascoltiamo i Genesis con Squonk. Squonk, il titolo curioso è relativo a una sorta di animale, qualcosa di mitologico descritto in questa bella canzone da A Trick of the Tail, con una punta di giusta invidia nei confronti del ruolo di Phil Collins, che non solo è uno dei batteristi più straordinari della storia del rock, ma è anche un ottimo cantante, un ottimo frontman, molto eclettico e poi anche fortunato. Chiaro che il talento ogni tanto viene giustamente ripagato. Poi, ecco, vorrei anche specificare che mi piace sorvolare su quella che poi è stata la sua attività dal punto di vista professionale molto, molto accreditata, la sua attività nell'ambito della musica leggera. Insomma, quando è diventato un po' più adulto ha fatto successo anche con canzoni un po' più sottili, ecco, diciamo, usiamo questo aggettivo. Allora, i messaggi stanno continuando ad arrivare. Io voglio salutare Giovanni che mi manda un commento su Ruggeri, un commento abbastanza triste che ammetto di condividere, però mi piace ricordare il momento in cui Ruggeri scriveva queste belle cose a fine anni 70 con i Decibel, con delle denunce sensate e soprattutto ancora oggi attuali, per cui mi piace rispolverare questi brani nonostante alcune cadute di stile del personaggio in questione, ma d'altronde chi non ne ha, insomma, non è così facile mantenere ruoli integerrimi sempre e comunque, ci sono tentazioni che ogni tanto, piuttosto che delusioni che subentrano nella vita, che ogni tanto fanno cambiare direzione, quindi non siamo certo qui per giudicare l'operato di alcuni artisti che dal punto di vista artistico hanno avuto delle fasi alterne. D'altronde ho appena emesso una sorta di giudizio velato anche su Phil Collins, che ha i suoi meriti e anche le sue colpe. Va bene, l'amico Werner dice: ho visto i Pink Floyd a Torino nel 94, ma devo colmare questa lacuna, quindi coglierà il mio suggerimento di andare a vedere Waters a Granada, grande. Poi mi ricordano di segnalare questa sera che Beppe Riva sarà in diretta come special guest martedì prossimo, ed è un evento, perché Beppe Riva, dovete sapere che in un contenitore come Easy Rider viene, e questo per me è un grande onore, un grande merito, perché non è uno che si concede molto mediaticamente, anzi non si concede mai, poi probabilmente anche perché non tutti sanno chi è, a parte i più grandi cultori di rock, hard rock, rock, heavy metal e affini. Allora, il prossimo pezzo è già pronto nel lettore CD, ci porta un po' nella modernità, visto che risale al 95. Loro si chiamano Goo Goo Dolls, qualcosa di abbastanza, non voglio dire del tutto inedito per Easy Rider, una volta li ho passati sicuramente con la loro celebre Iris, ma un po' prima hanno pubblicato altri album. Uno si intitolava A Boy Named Goo, quindi un ragazzo chiamato Goo, come loro, Goo Goo Dolls, che conteneva anche un buon singolo, Flat Top, è il titolo di questa canzone, Goo Goo Dolls. Yeah. Goo Goo Dolls dall'America più moderna, diciamo, anche se siamo negli anni 90 e insomma qualche anno è già passato, con la loro ottima capacità di scrivere semplici canzoni ma di buona raffinatezza melodica, e d'altronde un singolo come Iris ha veramente letteralmente spopolato esattamente 2 anni più tardi, quindi abbiamo ritrovato una sorta di punk melodico, anche se la parola punk magari gli calza un po' stretta. Allora, per questo devo ringraziare insomma anche la preziosa redazione di Easy Rider, e anche per questa bella descrizione dello squonk, che era il titolo della canzone dei Genesis, ispirata a un essere, appunto, come vi ho descritto prima, immaginifico. Nel folklore statunitense lo squonk è una misteriosa creatura che abita nelle foreste di conifere della Pennsylvania settentrionale. Gli squonk sono esseri di brutto aspetto e tristi, che piangono in continuazione, lasciando alle proprie spalle una scia di lacrime. Ecco, questa è un po' la descrizione di questa parola strana che magari non tutti possono conoscere. Arrivano anche altre testimonianze, come Emma da Firenze, che manda un abbraccio dicendo: non so se si tratta di una rarità o meno, ma il vinile di Trick of the Tail con i testi tradotti in italiano, e la storia di Squonk è molto tenera, fra l'altro. Esatto, la stessa versione che ho io era molto diffusa, usavano pubblicare in Italia i dischi dei Genesis con le traduzioni, se ricordo bene, di Armando Gallo, quindi questa cosa era dovuta a un fatto abbastanza inusuale, se lo si racconta nuovamente adesso, il fatto che i Genesis, che sono una delle band di fama planetaria consolidata, hanno conosciuto il successo come primo territorio proprio in Italia, quindi prima ancora di diventare un gruppo importante in Inghilterra hanno conosciuto il successo in Italia, quindi sono esplosi qui e poi nel loro paese dopo, e poi nel resto del mondo. Quindi l'Italia all'epoca aveva dei meriti che probabilmente ora non ha più. Allora, il prossimo pezzo ci porta in Australia, un pezzo decisamente rock and roll, ci dice Go Down, questo è il brano di apertura dell'album mio preferito, visto che si parla ancora di miei album preferiti, continuando una sorta di autocelebrazione da ieri sera. Si parla di Let There Be Rock, lascia che sia rock ancora finché possibile, e ovviamente loro sono gli AC/DC. get a touch like you. I let you do things to me, I let you know what I want to do. It feels good. Down suggerivano gli amici australiani quando erano ancora dei baldi giovani, ovviamente giovani anche come il loro cognome, i fratelli Young, ricordiamolo, insomma un cognome che rispecchiava anche un fatto, perché all'epoca lo erano e lo sono ancora adesso, nonostante il superamento dei 50 anni di età. Gli AC/DC sono una di quelle band che dal vivo sa ancora regalare energia a fiumi, energia a tonnellate, di questo ne siamo abbastanza certi. Allora lasciamo questo momento decisamente rock and roll dall'Australia per tornare dalle nostre parti. Andiamo nella California della Padania, potremmo definirla, e quindi in Liguria, nella città di Genova. In realtà andiamo nella città di Genova con uno dei gruppi italiani più importanti della storia. Io ho definito l'anno scorso album dell'anno proprio questa doppietta di opere uscita per i New Trolls, quelli di Vittorio Descalzi e Nico Di Palo, che si sono ritrovati dopo svariati decenni e hanno pubblicato un terzo volume del Concerto Grosso. Dopodiché è uscito un bellissimo live che si chiama Trilogy Live, che riporta esattamente tutti e tre i volumi del Concerto Grosso ed è stato registrato nella città di Trieste. Allora rispolveriamo quello che, ripeto, è stato a mio avviso uno dei due dischi dell'anno scorso, del 2007, quindi questo box di due CD con un DVD, e andiamo ad ascoltarci le tracce praticamente di apertura, un allegro che è un intro e poi l'adagio, la celebre Shadows, il tema che poi ricordiamo essere stato anche il tema di un film poliziesco proprio nel 1971, che era La vittima designata. E allora ascoltiamoci questo frammento di storia del rock orchestrato e anche della musica classica italiana, New Trolls. maybe it's a dream.